Radio 24 e Salone del Libro 2012 presentano Piccolo Mondo Antico. Benvenuti all'ultimo appuntamento con Piccolo Mondo Antico, la rubrica di Radio 24 che ci ha accompagnati giorno per giorno all'apertura del Salone del Libro di Torino 2012. Per 10 giorni abbiamo raccontato alcuni dei cambiamenti che la tecnologia ha portato nel nostro modo di fare cultura. Cambiamenti diffusi nel nostro quotidiano, perché la cultura non è solo quella accademica. Anche scattare una fotografia, scrivere una lettera o ascoltare della musica è cultura. E tutte queste azioni sono cambiate profondamente negli ultimi 25 anni. Oggi parliamo dell'oggetto culturale per eccellenza, il libro. Titolo, autore, casa editrice, numero di pagine e prezzo. Ecco la carta d'identità del libro come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. Perché il libro è da secoli un oggetto rettangolare, più o meno grande, composto di fogli stampati racchiusi in una copertina. Il libro ha un peso, la colla che tiene insieme le pagine ha un odore, la qualità della pagina una consistenza. Tra tutti gli oggetti culturali, il libro è forse quello più fisico, anche per il filosofo Massimo Cacciari. Professore, questo è il suo studio? Questo è dove lavoro, sì, questo. E questa stanza qua con queste librerie è la stanza della filosofia, corretto? È la stanza della filosofia e della teologia, insomma sono le cose più usate, quelle che devo avere a portata di mano, i manuali. Dunque, per Cacciari, il libro tradizionale, quello di carta e inchiostro, è come un cacciavite o un martello per un operaio. Uno strumento di lavoro da tenere a portata di mano. E la biblioteca diventa la cassetta degli attrezzi. Eppure l'oggetto libro ha anche dei limiti, dati proprio dalla sua fisicità. Si impolvera se lasciato su uno scaffale, si bagna se piove, si può perdere. È ingombrante e pesante nelle borse e negli zaini degli studenti. Ce n'è abbastanza per volerlo eliminare. Io ho 6 figli e Ciro di 8 anni quando va a scuola tutte le mattine mi fa una pena perché sembra uno sherpa, c'ho uno zaino di 15 kg, esce così e mi guarda, papà, sono gobbo. Tra i sostenitori del futuro, Beppe Grillo è uno dei più attivi. Gira l'Italia con i suoi spettacoli a favore della rete, del risparmio energetico, della smaterializzazione degli oggetti come via verso un mondo migliore. In questo panorama futuribile, anche il libro è destinato a sparire, anzi, è già sparito, perché l'ebook, il libro digitale, ha già 40 anni. È un ebook, lo accendi e poi si allaccia alla rete come un telefonino e ti scarichi tutti i libri del mondo, 200.000 titoli. Questo è il sapere messo in tasca dove vuoi, quando vuoi, il sapere di tutto il mondo. Il primo prototipo è apparso in America nel 1971, mentre nel 1993 due studenti del Politecnico di Milano hanno realizzato il primo e-reader italiano. È il 2007 quando Amazon lancia Kindle in America e l'ebook diventa per la prima volta una realtà possibile e di massa. In Italia la diffusione degli ebook non è decollata fino alla fine del 2010, quando per la prima volta, in occasione delle feste natalizie, il formato digitale si è affermato anche da noi. Ma l'America continua ad essere il mercato apripista. Nel febbraio 2011, l'Associazione degli Editori Americani ha comunicato che per la prima volta il formato ebook ha superato in vendite quello cartaceo. Buon futuro a tutti! Piccolo Mondo Antico è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.